Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Qualche giorno fa ci siamo occupati del grave ritardo dei decreti attuativi necessari a dare corpo, a dare sostanza al decreto legislativo 28 dello scorso 3 marzo, il cosiddetto decreto rinnovabili. Ebbene, tra i decreti più attesi c'è quello che ridefinirà gli incentivi per tutte le rinnovabili elettriche, fotovoltaico escluso, rinnovabili il cui sviluppo, a causa appunto dell'incertezza, è in gran parte bloccato. Tra i settori che più soffrono questa situazione c'è l'eolico, il quale al contrario del fotovoltaico, la cui cavalcata ormai prosegue quasi senza controllo, viene da dire, siamo oltre gli 11 gigawattora installati. Ebbene, l'eolico invece ha subito una frenata. Nel 2011 si prevede che saranno installati circa 700 megawatt contro gli 850 del 2010, anno in cui si era già osservato un rallentamento rispetto all'anno precedente, in cui sono stati installati nel 2009, quindi quasi 1200 megawatt. Di tutta questa situazione e di cosa gli operatori dell'eolico si aspettano dal futuro decreto, il cui varo a questo punto appare davvero urgente, discutiamo con Simone Togni, presidente di ANEV, l'Associazione Nazionale Energia dal Vento. Buonasera Togni. Buonasera. Allora, incertezza normativa e livello degli incentivi mi pare che siano le due problematiche principali alla fine, no? Certamente sì, perché quello che si è verificato negli ultimi anni è effettivamente riconducibile a questi due aspetti, quindi una mancanza di definizione di un quadro normativo stabile che consentirebbe anche un recupero di efficienza nell'incentivazione di queste tecnologie, e poi la mancanza di un appunto piano economico e di sostegno sufficiente a far sì che questi impianti possano trovare il loro ritorno. In particolare ricordiamo che negli ultimi 5 anni il valore dell'incentivo è sceso di oltre il 40%, con di fatto una stabilizzazione che oggi viene chiesta, e la cosa che più ha colpito il settore è che questi interventi sono stati fatti in maniera retroattiva. Cioè, siccome il meccanismo con cui viene remunerato l'eolico è il certificato verde, questo è un valore che viene discusso sul mercato, chi aveva installato magari 5 anni fa o anche 3 anni fa un impianto eolico pagandolo ai prezzi di mercato di 3 anni fa, si è trovato però ridotto l'incentivo, esattamente come uno che mette l'impianto domani. È questo il problema, no? Sostanzialmente. Assolutamente sì, e questo è che è un principio giusto, cioè quello di andare a ridurre l'incentivo, però non deve ricadere, certo, perché altrimenti si sballano i business plan. Tra l'altro un altro elemento invece sul quale voi continuate a insistere, non solo voi a dire il vero, è quello dei costi burocratici. Questa è una delle cose di maggior cruccio, particolarmente in questi giorni in cui si parla di sviluppo e quindi di provvedimenti magari a costo zero, e credo che questo sarebbe esattamente il provvedimento a costo zero per definizione, vero? Se lei solo considera che riducendo la burocrazia, i costi del ritardo, delle autorizzazioni e delle connessioni, si potrebbe recuperare un qualcosa intorno al 10% del valore dell'incentivo che viene riconosciuto, senza che nessuno ne abbia un danno. Chiaramente questo sarebbe valido solo per i nuovi impianti e non per quelli che già hanno subito questi ritardi. Cioè, voi dite, il giorno dopo che sono stati risolti questi problemi burocratici ci potete abbassare l'incentivo del 10% circa, che per noi va bene perché sono costi che non sosteniamo più e quindi non ci abbiamo perso nulla. Assolutamente sì, e quello che viene a essere recuperato andrebbe a beneficio del sistema, ovviamente, non degli operatori. D'accordo. Mi dice i tre titoli, insomma, le cose che chiedete in estrema sintesi. Che sia diciamo sufficiente a far ritornare l'investimento, che sia congruo rispetto all'obiettivo comunitario al 2020 e che riduca in maniera significativa la burocrazia, evitando di entrare in quel meccanismo di aste da subito così critico, che a livello europeo ha creato molti problemi e che noi riteniamo possa essere il punto debole del nuovo provvedimento. Senta, però qui tutti chiedono incentivi, è ovvio che se io domani metto un incentivo di un euro per ogni pollo allevato, dopo un anno c'è 1 milione di persone che vive di allevamento di polli, e se gli togliamo l'incentivo fallisce tutto. Allora le chiedo, oggi c'è un'industria italiana dell'eolico a cui poi in ultima analisi arrivano questi incentivi, o rischiamo di finanziare produzione estere, come purtroppo è accaduto per il fotovoltaico, visto che la produzione di celle in Italia è davvero minima? Con l'eolico come siamo messi? Questo è esattamente uno dei falsi miti che noi ci riproponiamo di sfatare. L'Italia è nel settore eolico ormai da 3 anni esportatrice netta di tecnologia, cioè noi abbiamo 29.000 addetti nel settore, e di questi 29.000 una parte importante lavora sulla parte componentistica, sulla realizzazione degli aerogeneratori e quindi produce e esporta addirittura tecnologia nel resto del mondo. Quindi è più il valore prodotto in Italia a livello di componentistica di quello installato in Italia. Esattamente. È così. A che quota siamo adesso? Oggi siamo a 6.100 megawatt di potenza installata negli ultimi 15 anni, quindi con una crescita assai lenta. L'obiettivo che il governo si è dato in Europa è di circa 13.000 megawatt e il potenziale tecnico del nostro paese è di 16.200 megawatt. Grazie Simone Togni. Grazie a voi. Bene, questa sera chiudiamo con una notizia per tutti gli ascoltatori assidui di Mr. Kilowatt, perché venerdì scorso, quindi il 28, è stato messo alla prova il famoso reattore da 1 megawatt a fusione fredda realizzato da Andrea Rossi. Voi sapete che insomma ci stiamo ampiamente occupati di questa vicenda qui a Mr. Kilowatt. Il test si è svolto a Bologna, a porte chiuse, anche se è stato concesso a un pubblico molto ristretto di assistere all'esperimento. Rossi ha spiegato che il test era stato realizzato a beneficio di un compratore non meglio specificato, un compratore americano, circolano voci che sia di natura militare, e pare che sia anche andato bene questo test con l'apparato che ha funzionato per 5 ore e mezzo in self-sustained mode, cioè senza alcun apporto di energia dall'esterno, producendo mediamente mezzo megawatt di potenza. Il consulente che rappresentava il cliente si sarebbe dichiarato soddisfatto, pur ammettendo che la tecnologia ha bisogno di ulteriori sviluppi prima di poter essere utilizzata industrialmente. Resta invece, come abbiamo sottolineato altre volte, la necessità di un test svolto da terzi che tolga dal tavolo una volta per tutte l'ipotesi bufala, test che a questo punto dovrebbe davvero essere il prossimo passo. Vi terremo aggiornati. Buona serata a tutti.